Io non vorrei bestemmiare, ma credimi, solo Dio non potrà salvarti dal restare solo. Un domani zio sciogli quei nodi di lacrime e cammina senza il fio della croce in umano di rime. Alza la testa e corri e continua a volare. Io non vorrei bestemmiare, ma credimi, solo Dio non potrà salvarti dal restare solo. Un domani zio sciogli quei nodi di lacrime e cammina senza il fio della croce in umano di rime. Alza la testa e corri e continua a volare. Sono al lavoro solo, un prete viene a predicare messa solo per salvare la mia anima, ma ogni mia rima tiene stretto il dolore della gente che il suo Dio mai salverà. Nelle buie ore dei tormenti, dei ricordi dell'io sempre più perso e arso, e mi chiedo dov'è il suo Dio adesso, mentre un uomo solo muore lo stesso, anche se ha sempre le mani cinte in preghiera per un migliore domani. Io non vorrei bestemmiare, ma credimi, solo Dio non potrà salvarti dal restare solo. Un domani zio sciogli quei nodi di lacrime, cammina senza il fio della croce inumana di rime. Alza la testa e corri e continua a volare. Alza la testa e corri e continua a volare. Continua a volare. Forse la fede a volte aiuta, può aiutare, ma non cancella il male di una cella. Il sangue torna sempre a ferire, modella, anche se il tuo credo è benedetto e sembra riaprire ogni speranza. Sicuramente io non credo più in Dio dopo il sangue che ho visto, anche se spero che gli amici persi credo siano lassù su una stella a volare. Anche se non credo di certo in Dio, non li ha voluti salvare. Io non credo, non vorrei bestemmiare, ma credimi, solo Dio non potrà salvarti dal restare solo. Un domani zio sciogli quei nodi di lacrime, cammina senza il fio della croce inumana di rime. Alza la testa e corri e continua a volare. Alza la testa e corri e continua a volare. Continua a volare. Trovo in tutto questo sangue indigesto di mille religioni che causano il male delle genti del mondo, prese come pretesto per continuare popoli che volevano solo un tetto. Abili spiritismi di un al di là che non salva dal freddo letto di una stanza vuota di qua. In me solo rimane solo la fede in me stesso, l'asso nella mia manica lo cerco dentro, non certo in un Dio più giusto. Io non vorrei bestemmiare, ma credimi, solo Dio non potrà salvarti dal restare solo. Un domani zio sciogli quei nodi di lacrime, cammina senza il fio della croce inumana di lacrime, di lacrime. Alza la testa e corri e continua a volare. Continua a volare, continua a volare. Questo solo per farti pensare, per farti pensare a... Poi alle volte senti il telegiornale e torni a capire dello schifo di alcuni preti con addosso violenza carnale e torni a vomitare lo strazio. Senti, se devi credi solo in Dio piuttosto, non alla Chiesa piuttosto. Se devi credi solo in Dio piuttosto, non alla Chiesa piuttosto. Alcuni preti girano con violenza carnale addosso, con violenza carnale addosso. Io non vorrei bestemmiare, ma credimi, solo Dio non potrà salvarti dal restare solo. Un domani zio sciogli quei nodi di lacrime, cammina senza il fio della croce inumana di lacrime.